Orizzonti. Fotografie sonore dalla Campania multiculturale. Che lavoro fai? Come ti chiami? Come inizia la tua giornata? Siamo tutti diversi o siamo tutti uguali? Dimmi tre ricordi che porteresti con te ovunque. Quante lingue parli? Qual è secondo te una cosa inspiegabile dell'Italia? Gli alieni ti danno uno speciale raggio laser per togliere la cosa più brutta del pianeta. Che cosa vuoi togliere? Qual è il tuo colore preferito? Cosa vedi all'orizzonte? Senta. Ehi! Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino! In questo episodio, Douglas. Ciao cari ascoltatori, mi chiamo Douglas, pronunciando in francese, non in inglese come lo fa la maggior parte degli italiani. Sono alla ricerca di un'occupazione stabile e nel frattempo faccio volontariato in un centro per disabili. Ho 34 anni. La prima cosa che vedo quando esco da casa mia non è proprio all'uscita, ma lì vicino. Si tratta del mare, perché vivo a Capaccio. Quando mi alzo la mattina, faccio 2 ore di attività fisica, nelle quali corsa e corpo libero, dopodiché gestisco la giornata mia in base agli eventuali lavoretti che ottengo ricevendo delle chiamate. I pomeriggi, quasi tutti, vado al centro per i disabili dove do una mano per 3 ore, dalle ore 4 fino alle ore 7. Mi piacerebbe vivere a Napoli, città storica dell'Italia. Bienvenue au Cameroun. Ovviamente non sono nato in Italia, neanche i miei genitori sono italiani. Quando mi fanno una domanda di genere, rispondo con orgoglio che sono un fiero camerunense. Parlo 4 lingue, francese, inglese, italiano, balengu. Non canto, perché sono stonato. Porterei con me la Bibbia, il rosario e la foto della mia madre. Domanda non facile, sarà impossibile spiegargli come funzioniamo. L'unica cosa che gli direi e bisogna viverci per capirci, perché siamo tutti differenti. La cosa più inspiegabile per me in Italia è il razzismo. Lo punterei su tutte le armi, tutti equipaggiamenti dell'esercito, navi armate, sottomarini nucleari e così via. In breve, lo punterei su tutto ciò che può portare via una vita umana. Per me lo straniero non esiste dal punto di vista morfologico, fisiologico, fisico e anatomico. Il colore più bello del mondo in questo momento per me è verde. Andando verso l'orizzonte, vedo con più chiarezza un mondo di pace, dell'accettazione della differenza del colore della pelle, dell'accettazione della religione dell'altro, dell'accettazione della differenza culturale e soprattutto una convivenza senza limiti e confini. Grazie.